chiedi se mai sospira, se mai sospira, quando il mio nome ascolta. Chiedi se il proferir talvolta nel radunare frasi nel ragionare frasi. Tu di saper procura dove il mio ben s'aggira, dove il mio ben s'aggira, sei più di me sicura, sei parla più di me, sei parla. Se più di me sicura, se parla più di me, procura sapere dove, dove s'aggira, se più sicura, se parla più di me. Sei...